mascio costureri, capo mascio do paesi. Riuniu tutti li masci qua speranzo mi ace spisi. Riuniu tutti li masci qua speranzo mi ace spisi. Ne riuni una decina tutti quanti con nomi misteri. Ed io si mise in testa per muhaggio capo canteri. Ed io si mise in testa per muhaggio capo canteri. Lo mascio do pinneiu avaran da speranza. Ma soru pittamo noi on escia manco e minoranza. Soru pittamo noi on escia manco e minoranza. Olla faciti, madonna mia. Olla faciti, sta carità. Cacindaiamo e casi lì, facite sta carità. Cacindaiamo e casi lì, facite sta carità. Lo mascio dei carrozzi abbandonao lo partito, sperando co comunio sa mantena lo viglico, sperando co comunio sa mantena lo viglico. Lo mascio dell'arnesi, bozza mi su per dispetto, di sacavo si rendo la orica, se no ci sparo un topetto. Di sacavo si rendo la orica, se no ci sparo un topetto. Lo mascio degli sbocchi, l'ultimo arrivato, chiamato mento tappu no mu puzzo comparato, fu chiamato mento tappu no mu puzzo comparato. Olla faciti, madonna mia, olla faciti, sta carità, cacindaiamo e casi lì, agiti sa carità, camindaiamo e casi lì, agiti sa carità. E dopo tutti si masci, con tanti belli pensieri, restammo meravigliati con ce mancano cantoneri. Restammo meravigliati con ce mancano cantoneri. E non mi consideramo una ciccio quaccio manuale, chi vorrenno diventano masci con consiglio comunale. Chi vorrenno diventano masci con consiglio comunale. Con tanti sacrifici e con tanti intenzioni, armaro lo canteri per mu perdono le elezioni. Armaro lo canteri per mu perdono le elezioni. Paci di Liglia, madonna mia, paci di Liglia, sta carità. Camire stamo casi lì, facite sa carità. Camire stamo casi lì, facite sa carità. Dincia stu canteri, c'è un vasto assortimento, ma mi pare che dopo stavolta non dichiarano fallimento. Mi pare che dopo stavolta non dichiarano fallimento. Che dopo 5 anni galli acquisiti in Tamarina, mi dispiace che hanno perdono puro carci per Gerlina. Mi dispiace che hanno perdono puro carci per Gerlina. Vi salutiamo a tutti con una rama d'olivara e a digli no consiglio solo li potemo dare. Usarmano canteri versi parte do barra natale. Usarmano canteri versi parte do barra natale. Paci di Liglia, madonna mia, paci di Liglia, sta carità. Camira stamo casi lì, facite sa carità. Camira stamo casi lì, facite sa carità.